un po' di... Gli uomini morti non parlano. Ok, Dead Man Tells allora, the Tales. parte il fight. Fight apocalittico che sembra che noi non abbiamo una chance di sopravvivere, invece 3 su 4 sono morti. CCL chiaramente se l'è andata a gambe, ha fatto benissimo. E subito all'inizio del fight, Amith viene consegnata alla principessa chiedendole di mantenerla addormentata. Amith deve prepararsi, aveva la pistola per farlo. Andiamo avanti. E convinta dagli altri, fa un romanzi subito al suo primo turno ed effettivamente cede una buona cosa, nel senso che stanna tutti quelli che poteva stannare, addormenta tutti quelli che poteva addormentare, tranne la Magister City. E abbiamo vinto il game, adesso ce ne andiamo, ce ne andiamo, ce ne andiamo. Nonché Pronoe, addormentata, fa un Adone move, nel senso che si erge e getta il cuore verso la principessa. Getta il cuore verso la principessa, Mif la scuda e ha questo incontro carino con Braxaras. Papone. Pone! Decide di non ascoltarlo e di non fare quello che gli ha chiesto, quindi cerca di andare a far culo. E per favore fillatemi, perché io veramente ho bits di queste cose. Lieto da lontano, intanto Lieto si è allontanato, ammazza la Magisteristi. E anche sua madre le fa un botto di male, che è stata tutti là. Good. Come si è preso i giusti danni? Le Promezia ha preso i giusti danni, esatto. cazzate che ha No, fatto. È è Nibel che ha rimasta. ammazzato la Sì, Magisteristi, Promessa è scusate. rimasta 2 di vita e poi l'avete. Cioè, è stata sigillata. Esatto. Lieto vede che Mif sta per ammazzarsi, quindi le tira una forma di formaggio di pecorino. A Vero, quanto non ho pare scordato di funziona. questo particolare importante. Madonna, che... Non Chaos is your agent. Castello di Chaos. effettivamente funziona, Mif non si ammazza e quindi arriva Adone, che tutto il tempo prima era rimasto sdraiato per terra vicino a Mif, aspettando la morte incombente. Nessuno ha deciso di ammazzarlo, quindi prende le redini per la prima volta nella sua vita, fa una scelta forte, prende il cuore e tutti i cosetti lo seguono e si dirige alla centrale, dove rullo di tamburi trova coso, come si chiama? Devin. Devin. E che gli offre più o meno la pistola, Adone se la prende, pare. Non mi ricordo più No, la va nomenclatura. bene così. Niente, c'è solo. No, non è vero, c'è una robina che si è dimenticata. Mi fa sigillato Vati. Sì, vabbè, il tradimento di Mif manca come. Sì, che solo Lieto ha Lo visto, se non spiccolo sbaglio. particolare, sì. Esatto, Non solo giuri Lieto ha nemmeno. visto. E basta. Ah sì, Nibel prende la principessa. Lieto vuole andare in Adiria Non si e... vedo cazzo bene. E sì, Nibel aveva parlato con la principessa del suo desiderio. Esatto. E gli era stato promesso qualcosa? Mi ha promesso che mi avrebbe aiutato con la mia vendetta, perché io l'ho aiutata, cioè noi l'abbiamo aiutata con la sua, non l'ho Esatto. capito. E fine. Per iniziare, io vi faccio una roba a volo d'uccello. Nel senso che vi racconto una serie di storie. Sono sei. Passo dopo Passo dopo passo. passo, devi mutarti perché mi Grazie. risento. Grazie mille. Passo dopo passo, via dal campo di battaglia, con la salma della sua amica stretta fra le braccia. E poi la salma inizia a sfaldarsi. Scuota la testa, si guarda in basso, si guarda intorno, mentre cenere e terra cadono dalle sue braccia. Che stronza, mi hai fatto prendere un colpo. Cambio di scena. I vestiti del maggiordomo sono ancora eleganti, però sono sporchi di fango ed erba. Aveva perso per un attimo il controllo, un colpo di sonno, un mal di testa fortissimo. Percepisce la donna che voleva proteggere e allontanarsi. Percepisce parte del suo creatore allontanarsi. Si alza in piedi, tossisce. Basta con questa cazzo di mascherata. Si toglie la giacca, si toglie i pantaloni. Le scarpe erano già state sbriciolate dallo scontro. Gli occhi non sono più coperti dalla magia e ora sono interamente neri come la notte. Dalla giacca a terra tira fuori un'apparecchiatura, inserisce un manapenne e aspetta, mentre il suo corpo ritorna alla sua vera forma. E quando ha finito, corre verso la centrale. Cambio di scena. Appena si allontana, soggiungono alcuni soldati dell'impero, inorriditi e confusi dagli ordini, ma incapaci di ribellarsi. Forse per la loro devozione alla loro patria, forse per il terrore di quello che potrebbe succedergli se disertassero. In completo silenzio, come se stessero prendendo parte ad un'antica messa, recuperano Pronoe e Vi, ancora vivi, cercando di non pensare troppo al fatto che stiano respirando. Una strega per ciascuno dei due traccia un sigillo per terra, sotto al corpo immobile a mezz'aria. Un sigillo diabolico che si credeva perduto. Avvicinano entrambe le mani all'orecchio. Shibira, puoi aprire. Il sigillo si illumina. Le due persone vengono irradiate. Altri maghi intervengono e spostano l'intera zolla di terra verso l'accampamento. Taglio. Contemporaneamente, altre legioni si premurano di prendere in carico Rodvold e i suoi amici, difendendoli a costo della vita. Verranno messi su una nave militare non attraccata in nessun porto e spediti verso l'impero il prima possibile. Taglio. Rimanete voi quattro. Nibel, Lieto e la principessa, nel caso vi steste chiedendo chi era al quarto. Anche se per motivi diversi siete tutti diretti verso Esboson e il vostro passo finisce inevitabilmente per farvi riunire. Volete dire qualcosa o procedete in silenzio verso Esboson? E anche Mif. C'è Mif, c'è la principessa che cammina autonomamente, c'è Nibel e ci sei tu. No, Nibel non ha niente da dire, sta trascinando ma i piedi. Abbiamo un attimo di out of... Abbiamo stabilito che Lieto ha effettivamente assistito a Mif. Era sveglio? Sì. Sì, Lieto sì. Hai assistito a Mif sigillare un tizio usando una pergamena. Una pergamena e poi parlare con la Magister. Sì, direi che hai visto anche quella parte lì. Lieto non ha niente da dire. Lieto è tipo... Quattro persone di età diverse camminano in silenzio verso... Non è vero in realtà, e... Cioè, vorrei parlare con Nibel. Prego. E... Mi avvicino. E... Ti chiedo, senza troppi preamboli, se possiamo dividerci adesso il mal tolto di... che avevamo portato dal Tempio. Il mal tolto? Le mani. I soldi. I soldi, Nibel. Prendi quello che vuoi. Guardo Mif. Mif è interessata ai soldi? No, ma è interessata alla mana unit di Pseudo Celso, che ha già, quindi... È a posto. E allora... se non tu ce l'hai il manapenny... Tu ce l'hai il manapenny di Pseudo Celso? Ho il manapenny di Pseudo, c'ho il primo manapenny. Esatto, Mif ti chiede quello e fa, tu ti puoi prendere tutto quello che viene risposto. con quattro spanne di cazzo, non te lo do. Nibel ti lascia tutte le mana unit e tutte le mana penny che ha, ad eccezione di quelle di Apeiro. E pensi di andarci da solo? In pericolo la principessa dell'impero che hai lì, tipo ce l'hai con Nibel, immagino. Sì, esatto. Che scelta ho? Certo, la scelta di non coinvolgere una figura così influente? Cioè, quello è poco sicuro. Cioè, lei è cosciente, giusto? Sta camminando, cioè, non esatto, so se esatto, è cosciente, tipo, ma sta camminando. Tipo è stata lei a dirmi che mi aiuterà, quindi... Come ho detto a lui prima, comprendo bene cosa vuol dire volersi vendicare. Verso chi è la tua vendetta? Il maggiordomo. Fair fucking enough. E tu sei chiaramente non la principessa. Credo che il mio nome fosse Fredliga Kleistdotter. E i ricordi sono confusi. Gli ultimi avvenimenti mi hanno stordita. Presentarmi a voi è molto difficile in questo momento. Per qualche ragione sento che il mio nome vero sia un altro, un nome che detesto. Chiamatemi Ada. Va bene, Ada. Sei sicura di voler fare quello che vuoi fare? Alla fine mi avete liberata, quindi... E so che non avete intenzione di farmi del male. Per quello che devo fare mi serve una giovane di umili origini. Mi confermi che tu sei una giovane di umili origini? Mia madre era una contadina, mio padre un piccolo mercante. Non aveva nemmeno un negozio quando ero piccola. Già più. E allora per me puoi continuare ad accompagnarci. E come hai... come hai intenzione di... ammazzare la Nautilus? Pensi che sarà sola? Dal piano? Nipel. Mette la mano nella tasca e tira fuori 12 monete. Questo è il mio piano. E Mif ti guarda il braccio e fa... 12 è un po'... Continuerò a lanciargli addosso quella roba finché non smetterò di respirare. O finché non smetterà lei di respirare. Ricordati che penso che lei ne sappia più di te di funzioni quelle. Però non ti impedirò di andare contro. Ho due domande. Per meta, cioè, mi sta parlando il Master. Chi di Ciao, voi master. Ha il bastone del Magister? Mif. Ok, te lo segno nell'inventario. Mi serve sapere chi ha cosa. Ok, ce l'avevi già. Sì, okay, l'avevamo sistemato. Sì, sì, con bastone intendi la wand. Sì. Sì, scettro magico. Sì, sì, se lo scettro, ce l'avevo già. Da un po'. E... mi fa vedere. In realtà una... credo anche il libro di Morgana, credo ce l'abbia Mif, perché l'ho dato a lei. Mi sa da sì, c'ha okay, anche il libro. Allora lo tolgo. Sì, sì, sì. La pergamena doveva avercela ancora io. Ok. L'altra cosa che mi interessava sapere è... mi fai delle armi da fuoco, giusto? No. Hai la Vainglory, ok. Ho la Vainglory, esatto. Basta. Ok, sì sì no, niente, era per cercare il vostro equipaggiamento. Mi serviva sapere chi ha cosa. Ok. Fine della parentesi. Mif si gira verso Lieto e fa intenzione di rimanere con Nibel? Non lo so, molto... per molto poco probabilmente le nostre strade sento che si divideranno. Capisco. Hai visto qualcosa al tempio? Sì. Ma è una cosa che devo fare da solo, probabilmente. Hanno preso tua madre, sei soddisfatto di quello che volevi? No, non mi interessava particolarmente. Il fatto che sia sopravvissuta probabilmente è uno spiacevole avvenimento per lei. Ho capito che non bisogna davvero combattere loro. Loro intendi l'impero? O lei? I diavoli, divinità, i magister, le centrali. Non ha tutto senso. Sono dei sintomi, non sono la causa. E tu vorresti risolvere la causa all'origine? Sì. E come pensi di farlo? Questo rimane tra me e me per adesso. Dietro chiaramente non si fida manco il cazzo, cioè non, che sia chiara questa cosa. C'era scritto un feone, giustamente. Non c'era cazzo di niente. Tipo, Nif che alza gli occhi al cielo e fa: non pensare che io sia del tutto con... Del tutto? Con loro. L'ho tagliato. Scusa. Abbio. E non pensare dietro che io sia del tutto con loro. Se sto facendo quello che sto facendo è perché c'ho un guadagno particolare. Sono anch'io d'accordo che tutto questo sia fuori di testa. E quale sarebbe il guadagno? Insomma, dai piani A poi si può avere un controllo se... Insomma, cioè, Mif in questo caso, cioè, si incrocia le braccia e fa... Chiaramente ci sono voluti anni perché questa farsa delle centrali fu un ottimo brainwashing, però... Con un altro po' di anni... Tanto, porco Dio, datemi un attimo. Basta che parli che un pochino più alto. Sì, sì, probabilmente è abbassato troppo la... Ma il volume d'ingresso oppure con altro? La sensibilità. Datemi un attimo che la devo... Se tanto poi ti muti puoi anche tenerla quasi normale. Cioè, tienila bassa. Esatto. Anzi, puoi mettere il push to talk se vuoi. Sì, esatto. No, il push to talk è un dito in culo. Vabbè. E come mi sentite adesso? No, adesso bene. Ok, perfetto. A posto, dopo mi muto al massimo. E... Se c'è voluta un'ottima manipolazione per un tot anni per far credere a un'intera popolazione che le centrali possano servire, ci vorranno altri tot anni per convincerli in una maniera diversa. Non è tanto difficile alla fine manipolare una persona. Gli ignoranti anche... ancora di meno. E in cosa li faresti credere a questo punto? Io non penso che questa sia una realtà in cui voglio continuare a vivere. Quindi insomma, quello che ti posso dire è che indipendentemente da ciò che farai, tempo 2 anni forse, scrivimi, magari possiamo fare qualcosa insieme. Non voglio sigillarti, Lieto. Lieto chiaramente sta prendendo tutto con delle pinze enormi. C'è le pinze da barbecue di Monster Hunter. Cioè, sta tipo, questa è una frase che la mettiamo qua, questa è un'altra frase. Però questo discorso non l'ha convinto manco per il cazzo. Ci sta. Però comunque se lo tiene lì da parte. Cioè... In ogni caso se ti può rilassare. Finché non fai cagate l'impero non ha interesse nei tuoi confronti. Non voglio interrompere la vostra discussione sui fini, ma io vi ho detto il mio nome e non ho sentito i vostri. Lieto Esperi. Mif, stand out. A Lieto Esperi ha un twitch all'occhio che non riesce a controllare. Nibel Bjornsson. Mif Standout non ha una reazione così viscerale come con Lieto, ma è tipo, so chi sei. Non esattamente un gruppo di signori nessuno. Come dicevo, il mio unico interesse è prendermi una piccola vendetta. Ho tutta l'intenzione di aiutarvi, visto che alla fine, se sono libera, è merito vostro. E poi possiamo separarci. Me la cavo con la tecnologia. Se avete apparecchiature di mano o altri strumenti del genere, li posso perfezionare per quello che stiamo andando a fare. I guess. Puoi migliorarmi la managan. La prende. Rudimentale. Sì, si può fare qualcosa. E usa una forma di tecnomanzia che per voi non sapete se esiste, cioè non siete abbastanza acculturati da conoscere questo tipo di magia. Di sicuro non l'avete mai vista prima, non sembra paranormale, anomala, roba del genere, sembra solo una versione molto raffinata di un tipo di magia che non conoscete. E lo usa per fare delle micro modifiche all'apparecchiatura. Te la restituisce e dice: ho potenziato l'efficacia a scapito della quantità. Spero sia l'ideale. Grazie. E riprendo la mano che la guardo. Boshi Zadak ha un momento di stupore e poi dice: non mi è nuovo quel nome, come mai? A quanto pare è lui che ci sa fare con la tecnologia e infilo la pistola. Era lo stesso che voleva mettere il suo cuore dentro di te pochi istanti fa. Ho bisogno che mi facciate un roll, non vi dico su cosa, e può farlo anche Nibel, ma il tuo tiro è talmente basso che non ha senso. Non vi dico su cosa, perché se l'avete fallito non funziona. Porco Dio, perché fate i tiri alti quando... Non ci... No, ok, ok, ok. Nibel l'ha fallito. L'ha fallito per uno. Okay. Però l'ha fallito. Voi avete avuto successo. La magia che ha usato, benché non intrinsecamente diabolica, sembrerebbe essere il tipo di magia che potrebbe conferire Xadaka a un suo firmatario o una roba del genere. Cioè, non sarebbe strano. E il vibe che avete avvertito non è diabolico, di nuovo, però è fishy. Cioè, servono decenni di allenamento per arrivare a quel livello di abilità. Questa signora ha 25-26 anni. Questa signora, mi pare di capire che non sia la signora che abitava questo corpo poco fa. Lo dice ad alta voce? Sì. Minchia. È possibile che la mia psiche sia stata mescolata con qualcos'altro? Vabbè, per adesso ti ringrazio della pistola. Sì, potrebbe servirmi qualcuno. Sarà un viaggio lungo il mio. Se vuoi seguirmi. Sarebbe interessante, sicuramente. La tua Managan, la chiamiamo in maniera per niente sneaky Managan di Xadak. Madonna! Per niente sneaky. Ed è stata upgradata a fare 2 di 6 danni da tuono, fuoco, oscurità a tua scelta. Ok. La parte che l'energia, cioè, riduce la quantità, è che invece di dare 2 di 6 cariche, dai 2 di 4, cioè, 1 di 4. Ok. Quindi è 1 di 4. Ne tiri 2 e prendi il più alto. Ah, e i danni sono... Se hai Ontica 2 è 2 di 8. Tu hai Ontica 2? Sì, quindi fa 2 di 8 danni questa schifezza. Mif tira fuori Vainglory, fa: è la stessa cosa? Puoi fare la stessa cosa? O è diverso il principio che fa questo? Hai dei mana penny con te? Sì. Dammene 3. Vedete che armeggia coi manapenny. Toglili dall'inventario. Quante mana unit ho preso da Nibel, che senti, me lo dimentico? Ne aveva 11, non so quante te ne ha date. Ha detto che non gli interessavano, quindi ho 11 mana unit. Pronto a fare il landlord se le cose vanno male. I Nadiria non ti serviranno, no. Penso. Fa un breve commento di quello che sta facendo. I dischi che utilizziamo per lanciare le magie all'interno delle apparecchiature di mana non sono diversi dalle mana penny. Facendo delle piccole modifiche, i mana penny si possono trasformare in varianti potenziate. Per cui prende 3 mana penny, li infila in un slot della Vainglory, usa una magia di fuoco per saldarli fondamentalmente, e ha effettivamente potenziato la Vainglory. Wow. Let's go! Che ora la chiamiamo Pride. Pride, figo, bellissimo. Avrò farming. Posso dire che probabilmente... Vanagloria è una delle poche volte in cui il nome italiano lo preferisco. Si sta. Avendolo solo potenziato con 3 mana penny, non ha dei lati negativi. Raddoppia i danni e puoi scegliere l'elemento quando lo casti. Sì, sulla scheda di di Google Sheet. Quindi adesso Lieto ha la pistola chiamata Pride. No, Miffa. No. Vista la pagina Pride, okay. Va bene, alla Managan di Xadak. Ok, visto che ma posso cambiarlo semplicemente a Managaifol, ma puoi chiamarlo Manavolver. Vi state... Prejudice. Vi state avvicinando alla città. Se non volete dire altro, ho da fare una mini scena. Vai, no, Nibel, non prosegue. Perfetto, ma la pena è cosciente. Perfetto. Anzi, smutati, mi muto io e basta. No, non mi sentono se parlo così. Hai visto che bravo che sono? Ti sta suonando il telefono. Ti sta suonando il telefono. I segreti. Hai tolto la cam, Birio? No, perché togli il cazzo di rimetti il microfono. Sì. No, togli il microfono. Miffa avvicina no, la mano. No, non metto la all'orecchio. Cam. Bio, metti la cam. Poi mutati. Sta mettendo in cosplay di Adon. Era esatto. Questo il dillo e poi mutati. E Miff fa un passo indietro e mette la mano all'orecchio. Mutati. Ciao Miff, senti, ci sarebbe una piccola complicazione. È il momento che gli spara, Miff. Ricordi che ti ho detto che ci sono un paio di creature strane sull'isola? Bene, uno dei santi sta arrivando nella tua direzione. È la prima volta che Nibel sente che Miff ha collaborato con l'impero, comunque. Uno dei santi sarà lì tra 2 minuti. Nibel casta fuck you. Non sembra avere buone intenzioni. Comunque, abbiamo tipo i soliti occhiali a te. Non lo so. Tocca a te scoprirlo. Sembrano estremamente simili. Credo. Cioè, io addosso prima. Tipo. Può darsi, sì. Fine delle comunicazioni. Oh, sono della nice. Lock in, ragazzi. Ci siamo. Miff fa un passo e fa. Come siete messi a risorse? Di cosa parli? Come ci vanno gli unit in mano? No. A risorse fisiche. Nibel ti guarda. Con il sangue alla bocca, con un braccio squartato che si sta rigenerando. Miff, intanto che si sta ricaricando il mana, sappilo. Vedete che intanto è così. Sta per arrivare un santo. E non ha buone intenzioni. Come si chiama questo santo? Non lo so. Cosa sarebbe un santo? Quello che sappiamo del santo è solamente che sono i globuli bianchi del corpo umano, della terra, tipo. Il corpo umano. Beh, in bocca al lupo allora. Prendo la principessa per il braccio e la trascino verso la città e comincio ad andare. Voi due cosa fate? Ma io vado in città. Cioè, seguendo Nibel o in un'altra direzione? E chi è qua il santo? Non lo sappiamo. posso è online e si sta mentendo. Non sta mentendo, è sincera, non ti faccio parlare. Esatto, esatto. Okay. La gocciolina di sudore sulla sua fronte tradisce la sua sincerità. Ok. Se ci vuole abbassare tutti, tanto vale che siamo insieme. Sì. Bene. Se hai modo per potenziarti, fallo. Al posto di? Oh, mamma. Ok. Ci siamo. Siete arrivati in città. Non c'è un muro esterno della città. Passano esattamente 2 minuti, quelli che vi avevano avvisato prima. Cosa sta succedendo? Cosa sta facendo? Oh, mamma. È arrivato il santo davvero. Questa è l'angela che fa dei casini. Sant'angela. Quando mai? Arrivate in città, non ci sono le mura della città, ma iniziano i palazzi, qualche albero, insomma, la roba della città, disposto anche sulla mappa. E quello che vedete è... Dottore! Prego, mi dica! Che cosa vedono? Aspetta un secondo, ti faccio una domanda. No, perché mi sta scrivendo in maniera privata. L'avevo intuito. La bubu. Mi si è cosata la telecamera, aspetta che... Sì. Promezza! Allora. La bubu. Dai! Io non lo vedo ancora, comunque. Neanch'io, ora sì. Ah, ok, adesso funziona anche da me. È arrivato. Sopra di voi... Chi vede meglio lo riesce a vedere bene, chi vede peggio lo vede peggio, ma vedete volare una creatura dal corpo metallico, bronzo quasi più nero pece ossidiana che un colore vero bronzeo, un corpo, un busto bianco, lattiginoso e un viso impassibile, anch'esso bianco. E delle grandi ali dispiegate da pipistrello. Con sé porta un busto carbonizzato con qualcosa che scintilla dove ci dovrebbe essere la sua mascella. E domanda: vedono il viso, Bianic? Vedono che il corpo che si sta portando dietro non ha un braccio. E in realtà è attaccato al resto del corpo, ha tipo un taglio da parte a parte. Basta. Vedete questa cosa volare sopra di voi e andare verso la città. Vi ignora. Prego, ditemi cosa volete fare. Beh, hai conosciuto il cadavere di Devin? Se l'hai riconosciuto tu, l'ha riconosciuto anche Lieto. Di Mif, prima o poi tutti i nodi vengono dal pettine. Ah, quello doveva essere un nodo? Di Mif che si passa una mano davanti alla faccia. Che dite, se mi sparo magari faccio la sua stessa fine e tipo continua ad andare avanti. Persona! Avanti! Tranquillissima. Al posto di Horoscope comunque, se quindi mi puoi fare il coso. Vado. Vai. Non dovete venire per forza. No, no, io voglio guardare, mi dispiace. E allora andiamo. Un'ultima volta. Vedete la creatura fermarsi, cioè volare e fermarsi sopra un palazzo in particolare, uno dei... l'avevate girati l'altro giorno, quindi li conoscete. Come si chiamano? Gli hotel, per così dire, del porto, quelli da ricchi. Mm-hmm. E si ferma proprio... Scegli, dimmi tu se sul tetto o davanti a una delle finestre. Sul tetto. Ok, arrivo da te tra un secondo, prima chiedo a loro cosa vogliono fare. Abbiamo intenzione di interessarci, di... abbiamo capito che è Adone, vero? Sì. Cioè l'abbiamo visto, ok. Beh, non la faccia era quella di Adone. È quella di Adone, se l'avessero strappata, messa su una roba di metallo e saldata. La faccia è quasi una burla, uno scherno di quello che era Adone. Una faccia metallica, senza... gliel'avevamo detto. Se lo merita. Mi aveva chiesto di fermarlo se... se fosse successo questo. Aveva chiesto una missione prima della di ucciderlo. E penso che sia morto. Ma penso anche io. Mif guarda Nivel e fa... probabilmente sarà un pericolo. Non ci metterei la mano sul fuoco, ma forse ce la metterei. Cioè, e continuo a guardare in alto. Potrebbe dare problemi. Quelli dell'impero cosa hanno intenzione di fare? Non me l'hanno detto. Hanno questo brutto vizio di dirmi le cose a metà. Quindi non lo so. Però ho la possibilità di sigillarlo, in caso. Cosa? Ne ha solo uno. Ah. Perché l'hai dovuto dire? Perché hai dovuto togliere la copertura? Lo dice la principessa. Sei contenta? Ma vaffanculo, principessa! Biff guarda la principessa e fa: sì, potrei utilizzarlo nei tuoi confronti, che dici? E io sono meno pericolosa di loro. Già, infatti. E... I guess glielo dovemmo. Direi proprio di sì. La persona quindi che stavate cercando chi è? E sta guardando Nibel, chiaramente. Quella che stiamo cercando e che abbiamo trovato? O l'altra? Quella di cui voglio vendicarmi. Alexandra Mukelos. La conosci? Di nome. Qualche possibilità che sia lì? Oh, dove è atterrato Exadone? Su il palazzo più da ricchi della città. Il secondo più alto dopo la cattedrale, la chiesa di Esbolo. Forse è una cattedrale. Sì. C'è una grossa percentuale. Non credo che la Mukelos sia persona da... non lo so. Stanze modeste, quindi le probabilità sono alte. Sempre se che sia ancora ad Esbosan e non sia andata alla centrale. È vero anche questo? Non l'abbiamo vista passare. Ah, giusto, però è arrivata tipo cosa, 2 giorni fa. Io sono disarmata al momento. Anche se credi che io possa ucciderla a mani nude, mi verrà difficile. Forse avrebbe non so senso... cosa vuole. Vai, finisci. Forse avrebbe senso trovare una strategia, un metodo per eliminarla prima. Non ho più la testa per ragionare su strategie e roba del genere. Sarebbe un problema. Non sono un mago, non sono un guerriero. Sono un uomo normale, a cui è stato tolto tutto. L'unica cosa che posso fare è caricare a testa bassa e sperare che funzioni. Dietro qua dal braccio. Gli uomini normali quello non ce l'hanno. Però comunque ho capito il tuo punto. Quante cariche avrai secondo te ancora? Non lo so. Però spero che Maeklon mi aiuterà fino alla fine. La principessa sorride quando dici questa frase. E mi guardo il braccio e dico: per quanto io abbia odiato questa condizione per anni, che ha decimato la mia famiglia, sarebbe stupido negare che l'unica che mi è stata vicina in questi anni è stata lei. Eh sì, andiamo così. E è, come si dice, è in testa al gruppo, va per prima. Lo segui. Si è inculata la mia lancia. Non era lei. Ci si è inculata la mia lancia. Cacci, non è vero. È da cercare Cici adesso. Poverina! Sarà al tempio, sarà al tempio. Se vuoi ci facciamo una capatina al tempio. Uguale. Da te. E Mif, scusami, ma per sì. Mif nel mentre si guarda attorno per vedere se c'è qualcuno che conosce. La lascio sul vago, tu hai capito. Rolla. Rollo. Percepire. C'hai più 8, quindi hai buone possibilità. Ho fatto 10. Mettili un altro. Con 25 siamo tutti d'accordo che la cosa che sto per dire è plausibile, giusto? Sì. Benissimo. Sì. Come ti dicevo, Esbozon ha due edifici che sono i più alti. Sul primo è appena atterrata la creatura di qui sopra. Sul secondo, sul quale ti cade l'occhio perché appunto stai guardando i due edifici più alti, vedi che ci sono due persone non è la finestra, ecco, sulla cima dell'ultimo davanzale. Sono molto lontani, ma i loro vestiti tradiscono che si tratta di stranieri, cioè non di Esbozon, di Scirocco. Sono un ragazzo e una ragazza, lui moro e lei bionda. È un'idea molto precisa di chi siano. Io ho un problema. Io Sara non ho capito. Ecco, sono Deimos e l'altra? Sì. Ok, grazie, a posto. Let's go. Dai, avevo capito io. Scusatevi, ho avuto un attimo di... Se dite, possiamo risparmiare un attimo di tempo? Mi è venuta un'idea. Dove vuoi andare? Sono un po' lontanini, ma non penso sia il palazzo giusto, oppure loro sono nel palazzo giusto. Quindi vediamo un po' cosa hanno in mente. Magari riusciamo ad avere alleati contro Pseudadone. Facciamo in fretta. Sì. Non sono entusiasta all'idea di tornare in una chiesa, ma chissà che non trovi qualcosa di utile. Puoi sempre rimanere fuori. Giusto. E vi dirigete verso la chiesa e io rapisco Adone. Ciao! Eccoci qua. Abbiamo un problema logistico, come avrai notato. Certo, oh, no. Assolutamente e... sì. Vado in bagno. No, no, no. Fai come vuoi, cioè o non ascolti, mi senti troppo bene per non ascoltarmi. Sì. Durerà poco comunque. Certo. Vai, quelli, unisci l'utile al direttevole. Ti busto da qua, se mai quando... Siamo senza musica, va bene lo stesso. Va benissimo. Sei atterrato sul tetto. Ok, il tetto ha una sola entrata dalla quale le tue ali non passano, quindi dovresti restringerle o comunque chiuderle. E senti la presenza della persona con l'anima bruciata qui dentro. Oh. E hai l'impressione che la donna che cercavi sia qui dentro. Ricordi da quando eri Adone la sua faccia, certo, la sua forza energetica, e ora riesci a tradurla in un'immagine che per Meskenos è molto chiara. Vediamo un attimo. Domanda, io entro dentro una stanza o dentro un corridoio? Tu sei in un corridoio quando scendi le scale. Ok. Ok, sai cosa? Sì, Meskenos non ha percezione di nulla, quindi ti stai entra. Ancora portando il corpo di Devin in braccio? No, credo che a questo punto lo lascia lì sul tetto. Ok, perfetto. Il corpo lo lascia lì sul tetto, dicendo all'anima che tornerà. Non c'è nessuna poi risposta, ovviamente. Certo. Rientra e il modo in cui si muove è molto uncanny, cioè considerando anche che è 2,40 m, ho deciso, sì, fai conto che si muove addirittura a quattro zampe perché è più comodo. Sì, sì, sì, sì, ci sta. Quindi si chiude le ali ed entra. Hai due porte, ci sono quattro stanze, però due sono, non senti niente dentro. In quella a destra c'è la cosa con l'anima bruciata, in quella a sinistra c'è l'altra persona. Io credo che entro dove c'è l'anima bruciata. Posso farti una domanda? Sì. Scusami un secondo. Posso scegliere chi... Posso usare Absolute Order e scegliere che le persone attorno a me, quindi sia l'anima bruciata che l'altra, non mi facciano del male? Posso farla come cosa? No, tu con questo scegli... scegli un tipo di azione che non possono fare, quindi puoi scegliere spell e impedirgli di fare spell, per esempio. Scegliere okay di non farti danno non puoi. Ok, allora scelgo che non mi facciano spell. Ok, lo casti, paghi 2 di fatica, vai a 56. Ok. E 17 metri riesci a prendere entrambe le stanze tranquillamente. Perfetto. Ok, vuoi entrare nella stanza di quello... Ok. Come apri la porta? Perché devo immaginarmi sta cosa. Oggettivamente fa paura. Perché Meskenos apre la porta, che sia chiusa a chiave o meno, la scardina se serve. Sì. E quindi come... Oh madonna, avrei una reference perfetta da farti vabbè, no, vedere. Vabbè, no, è uguale. Basta che me la descrivi leggermente e poi... Basta. Entra con la testa e poi si erge in piedi come può. Dall'altro lato c'è un tizio che, se non ci fossi tu, sarebbe il più strano nella stanza. Ahimè, secondo posto. Il tizio ha i capelli rossi, di un rosso innaturale, cioè proprio come una fiamma. Una fascia di pelle sugli occhi, foderata con una pelliccia, tutto sul marrone, dei bracciali dello stesso tipo, delle cavigliere dello stesso tipo e una gonna quasi identica. Non indossa nient'altro. Sentendoti entrare si gira e non ti vede perché ha gli occhi coperti e dice: chi sei? Credo di aver sbagliato porta. Ed esce! Meskenos esce! E chiude la porta dietro di sé! Il tizio cerca di castare una spell e si accorge di non riuscire a castarla, per cui è ancora più confuso e ti viene incontro e ti tocca con una mano. Ok. Come per fermarti? Meskenos si gira. Che cosa rimane sei? Fermo. Sono qualcosa di nuovo. E vedi che il tizio tira fuori un libro rosso, analogo a quelli che hai già visto. E è cieco, cioè c'ha un affare sugli occhi, e apre le pagine, eppure sembra che stia leggendo. Ok, Meskinus dice: ti chiedo di fermarti. Non voglio farti del male. Ho bisogno di comprendere cosa sei. No, non devi. E a questo punto Meskenos va via. Mi spiace. E legge dal libro e dice: Azza Aganlaga. questa cosa, che normalmente causa ira al bersaglio, a Meskenos ha un effetto completamente diverso e va in berserk. Tagliamo qua la tua scena per un attimo. Porco Dio! Mi sposto a 1100. Oh mamma. Ciao ragazzi. Ciao bellissimo. Sara? Papà vai a bussare, sai, sai, va. Tornata in tempo. Arrivate in un paio di minuti alla chiesa e non so se c'eravate già entrati in questa. No, eravate entrati in quell'altra, no. Credo. Questa è la chiesa di quella dell'altro posto. È la chiesa di Asbos. No, no, anche in questa, perché in questa abbiamo chiesto al vescovo se ci poteva ospitare e invece ci ha detto uno dei posti qua adesso. Sì, ah, giusto, vero, sì, è vero. E ci ha dato il giornale. Questa okay, è la chiesa della è della Santa, sì, Santa Chiesa, la Santa Chiesa. Qua non ci sono okay, chiese, sì, allora, antiche. Sì, allora. La città vecchia è stata distrutta. Quindi... Voi vedete Sirio? No, vedo la no, telecamera. Mi è... Vediamo l'ape, poi potrei again. No, niente, non vedo. Comunque, entrate all'interno della chiesa e è tarda sera, cioè pomeriggio inoltrato. Si vede il sole, quindi è il tramonto. E praticamente in chiesa c'è solo il vescovo. Entra anche la principessa, mossa da peer pressure. Dobbiamo salire di sopra. Sto chiedendo a Mif. Sì, esatto. Si avvicina al vescovo e fa... salve. È possibile salire di sopra? Siete amici dei due che sono appena passati? Sì. Prego. Le scale grazie sono... mille. Buonasera. Faccio il chiudifila, metto una mano sulla spalla del vescovo e io tipo forse è meglio se vai a farti una passeggiata. La mia fede mi proteggerà. L'idiozia vedo uomo non è sparita e la principessa inizia ad andare verso le scale dopo aver dato una bella occhiata alle apparecchiature di mana che ci sono nel luogo. Salite le scale. Ci sono moltissime scale. È l'edificio più alto della città. Immagino che Nibel le faccia 4 a 4 per legarsi. Anche la principessa. In realtà no. Nibel già da prima trascinava i piedi. Okay. Quindi sta salendo abbastanza normalmente. Okay, cioè, per okay, il normale, per i standard degli altri, per lui è... invece sta andando lentamente. Sì, sì, sì. E la principessa è bella arzilla. Mif? Normale, direi. Cioè, okay, sta pestando per andare su. Ve la godete. Quando siete in cima, non c'è niente che vi separi fisicamente dalle due persone, perché la terrazza è completamente aperta. E quindi salito l'ultimo scalino, siete on par with them. Tant'è che si girano, vi guardano e sono visibilmente confusi. Buonasera a voi. Ci incontriamo di nuovo, dice... come si chiama? Deimos. Sì, non nelle migliori delle condizioni, e indica la cosa. The thing. L'abbiamo vista dirigersi verso il palazzo dove dimoriamo. C'è la Mucelos dentro? E anche Iona. E anche Iona. Forse è meglio che escano, sai? Avete modo di dirglielo? Non esattamente. Potrebbe essere un problema. State tutti guardando il palazzo? Sì. Bene, in cima al palazzo, sul tetto, vedete un tizio che si alza in piedi e cammina corre verso il ciglio del palazzo, si guarda intorno, vi vede che siete sei persone, sì, e ce l'ho sicuramente sta cosa, datemi un secondo perché devo solo rileggerla. Ah. e non hai dato retta a quello che dice Sara. Casta un paio di spell e crea un ponte molto fino che collega il palazzo alla chiesa, cioè tipo un cilindro di pietra. E inizia a camminare con i piedi uno davanti all'altro molto rapidamente nella vostra direzione, urlando. È il momento giusto per fare il Takeshi's Castle. Sì, esatto, è il momento giusto. E all'inizio è molto troppo lontano per sentirlo, però siete tutti confusi da questa cosa. E abbassa le braccia e urla: Mif, so che ci stiamo sul cazzo a vicenda, ma per una volta dovremmo stare dalla stessa parte. È Tevin. Ah, il lupo perde il vizio, ma non il vero. Mif, che può. Cosa mi offri? Sta continuando a correre nella vostra direzione. Ne parliamo dopo. Al momento è imperativo che non finiamo nei casini. Lieto prepara Fireball. Cosa mi offri? Di nuovo. Lieto c'è tipo la mano sul manavolve, però non fa nient'altro per il momento. Perché eri con Adone? Ha cercato di uccidermi. C'è riuscito, circa. Ho un sistema per non morire, non ve lo dico, è che altrimenti mi uccidereste. Mi metto davanti alla finestra io. No, quindi... siamo in una terrazza. Sì, puoi davanti alla cosa. Sì, ma va benissimo lo stesso. Quindi... non ho nessuna intenzione di fare cose strane. Io volevo uccidere tutti i Magister, volevo riportare la giustizia nell'impero. Quindi, cosa c'è che non vi piace di questa idea? Magari aspetta ad ucciderne tipo un paio che mi servono, poi farlo, non c'è un problema. Sarà fatto. Ottimo, perfetto. Come ha fatto Adone a diventare così? Esatto. Non sono sicuro del come si è sparato in testa con la mia pistola mentre aveva dentro l'artefatto. Non so se sapete tutta la storia. Guarda che c'è la principessa e la sua reazione è di tirar fuori la pistola e puntargliela. Perché cazzo lei è con voi? Non penso sia... Chi stai pensando? Chi pensate che sia? Chi non pensi chi tu sia? È il firmatario di Xadak. Sì, questo l'avevamo intuito. Nel migliore dei casi... è quella che tira le redini dell'impero. Nel peggiore dei casi è un cazzo di diavolo. È una via di mezzo tra entrambi e non penso sia né uno né l'altro. Ti è passato per la mente la possibilità che stia mentendo? Sì. Non ho intenzione di farti niente. Lasciatelo. Lasciatelo venire. Nibble, spostati, lasciatelo venire qua. Metto la mano davanti alla canna della pistola, tipo, e l'afferro. È a petto nudo perché li hai bruciati, quindi sì. Cioè, i vestiti bruciati, lo vedete, sono proprio carbonizzati. I pantaloni ce li ha. Mi spiace. Metto la mano davanti alla pistola, tipo, davanti alla canna proprio della pistola, e la abbasso. Okay. È la chiave per la mia vendetta. Si può farti star meglio. La tua vendetta contro chi è? Contro la Mucros. Ok, non me ne frega un cazzo. L'hai detto appena con il pupillo, i due pupilli della Mucros. Sì, che infatti sono un po' tipo... Tra di più, è troppo chiusa questa finestra. Okay. Posso una bella idea? Apriamo un po' la finestra. Di Devin, giusto? Ha intenzione di aiutarci oppure no? Ho intenzione di non morire come una merda. Siamo in due. Hai detto un che modo non puoi per... morire. Ho detto che ho un metodo per non morire, non ho detto che è infallibile. Hai un modo veloce per ammazzarli? Se non è così, posso sigillarlo. Shibira mi ha detto che uno dei due tizi dentro devi pensarci tu. Dentro dove? Dentro l'altro edificio. L'altro edificio. E i due che sono lì con voi, Deimos dice: dentro l'edificio ci siamo solo noi, la Mukelos e Iona. E non vi permetteremo di uccidere la nostra professoressa o il nostro amico. No, no, Iona non verrà ammazzato, non preoccuparti. La Mukelos potrebbe fare una fine diversa. Cosa pensate che abbia fatto per ucciderla? Nibel, prego! Guardo Nibel, tipo... E guardo con entrambi gli occhi blu luminosi. Non dico niente. Nibel sarebbe il momento di dirgli qualcosa, questo. E lieto gli tira, tipo... È una mezza comitata. Non farlo, metto la mano davanti così. Vorresti dire che è stata lei? Perché l'avrebbe fatto? E non perché è la può... più etica delle persone. Può e fa più o meno ciò che vuole. Siamo venuti a scoprire che, oltre ad aver danneggiato Nibel e la sua famiglia, ha anche ordinato l'uccisione di un tot di ragazze, bambine. Io mi devo origine. Conoscete il fratello della Mukelos? Ne ho sentito parlare, era il grande veggente di Apeira. Esatto, sapete perché è morto? Un infarto? No, che lei l'ha ucciso. Aveva predetto qualcosa che avrebbe portato la sua fine, e a lei non è piaciuta questa cosa. Anche se credesse a questa baggianata, pensi veramente di riuscire ad ammazzarla? Non è il primo magister che muore oggi. Non è un magister. È meno di un magister. È meno di un magister. Esatto. Riformulo la frase. Oggi è già morto un magister. Okay, ecco. Come ieri. Ieri ne è morto un altro. Vorreste dire che non abbiamo modo di fermarvi? Non ti sfugge un cazzo, eh? Vuoi provare? Vediamo di calmarci tutti. Non ha senso prendersi a pugni nella terrazza di una chiesa. Giusto? Magari possiamo risolvere le cose a parole. Magari potete vedere, in base alla reazione che avrà Nibel, la conferma o effettivamente se abbiamo detto delle bugie o meno. Quindi vorreste confrontarla e basta, a parole? Divertente. Nibel no. Dipende che parole. Io personalmente rimarrò a guardare. Non penso farò altro, però... Comunque, in ogni caso, la cosa più preoccupante è quella. Deimos, come la spieghi quella? E indica Hexadone. È ancora una manifestazione di magia o pensi che sia qualcosa di esterno finalmente, come ti ho detto l'altra volta? Lui indica il pesce gigante che sta oscurando il cielo e dice: noi eravamo lì qui per quello e non escludo che le due cose siano collegate. Interessante. Sai qual è il pesce, Senic? Sì, siamo qua per studiarlo e comprendere cosa sta succedendo. Bene, allora forse vi dovreste occupare di quello mentre noi ci occupiamo di altro. Marika, te che dici? Vi guarda uno dopo l'altro e dice: io non voglio avere niente a che fare con questa storia. Brava Marika, vedo che hai capito. Mif mette una mano sulla spalla a Deimos e fa: per una volta credimi, anche perché non ti ho mai detto cazzate, se non al tempio di Diru. Ti hai mai detto cazzo, ti chatto quella volta. Ti chatto quella volta. Tutto il resto è sempre stato genuino da parte mia. Va via da questo posto. Va via da questo posto. Prima che puoi. Scollegati da quella persona. Non farti più controllare così da una persona del genere. E liberati un po' dalle catene che hai. Sospira. E i due rimangono in un angolo della finestra, della terrazza. Cioè, non perché sia quello che vogliono fare, ma che gli è chiaro che non hanno la forza di fare nulla in questo caso. Più che altro perché siete veramente tanti e veramente incazzati. Hai parlato di un artefatto prima e si gira verso Devin. Sì. Come funziona? Non l'ho mai avuto sotto mano perché quando stavo per averlo... Quindi non so come funziona. E c'era Done anche quella volta. Sei l'incubo incarnato di David. Porca troia. Madonna! Veramente. No, intendo la pistola. Quale pistola? Hai detto che prima... Quella con cui hai sparato al Magister ieri. Esatto. Ah, c'è la principessa con la pistola in mano. Bel giocattolo che hai. Non me lo ridai, vero? No. Mi guardo la principessa e le dico... Hai bisogno d'altro? Nient'altro. Per favore, leva questo idiota dalla mia vista. Lo prendo Devin dalla testa, tipo sei ancora sul pilastro, e lo butto nel balcone. Lui cade a terra e dice: non avete idea di cosa cazzo state facendo? Di lei non ci si può fidare. Vado prima io? Devin, copriti gli occhi. Lo fa? Ok, perfetto, te rifai. I don't fucking care. Cazzo Terrify. We're gonna have so much fun. Stavate... Terrify, puoi scegliere su chi non farlo? È vero, sì. E decido di non farlo su Lieto. E perché tecnicamente posso farlo solo su una persona. Con la mia competenza. Perché in stregoneria hai uno? No, hai no, ho due persone. Adesso ho tre in stregoneria. Io vedo ancora due. Perché col cast nuovo non si attiva a 3, giusto? No, okay. Si attiva quello dopo. Poi okay, scegliere due persone sul quale non attivare Terrify. Allora faccio sia a sto punto Devin e Lieto. Devin e Lieto, ok. Ho bisogno che Nibel rolli 5 più M più LV, quindi 15, tondo. Io rollo per la principessa, tiro solo il dado e poi vi dico se ha successo o meno. Cosa, sempre resistere? Sì. Giuro che arriviamo, Sirio. Sì, sì, perché più che altro io sono tipo lì... Hello? What about me? 11 è un bel tiro, ma non roar, so... I'm stupid, roar. Perché era 15, era veramente troppo alto. Cazzo, ho chiamato la principessa. Ah, ok, l'ho chiamata col suo nome, ci sta, aveva senso. Dammi un secondo. Porco Dio, non posso farci niente. La principessa è feared. E Nibel è feared. Mif prende la pistola. Guarda, posso prendere la pistola, vero? Devi fare comunque un test di forza e superare quello della principessa. La principessa ha 0. Quindi lo superi. Cioè, lo supero senza rollare? Praticamente sì. Ok, va bene. Vuoi che rolli oppure semplicemente lo prendo? Ma non stare a rollare. Cioè dovresti fare più di 2. Ok. Quanto... Ottimo. Ho 2 di fisico. Sì, ho già contato. Dovresti fare più di 2. Faccio rollo allora. Vai. Fai 1, 2, no. Ma Dio cane! Sei terribile! Sei terribile! La principessa lo tiene con le unghie. Ah, scusa, io ho vantaggio in realtà. Ti tirano un altro e devi fare proprio 10. Visto il flimsy attempt di Miff, tirano un altro strappo di mano. Non credo succederà. No. Cioè, dipende. Aspetta. Tondo. È riuscito. Hai firato solo la principessa. E Nivel, sei ancora attivo, puoi fermare fisicamente sia Miff che Lieto. Cioè, Miff senza problemi. Afferro Miff per la faccia così coprendogli la bocca. Tardo! Cioè, Miff letteralmente prova a darti una gomitata da qualche parte, cioè cerca di vincolarsi. Prende così e ti solleva. Lieto mette una mano sulla spalla, Nibel. Aspetta un istante con la mano sulla spalla. Questo non velocizzerà la tua vendetta, anzi, potrebbe metterla in pericolo. L'hai visto che parlava con l'impero, no? Ti venderebbe se potesse farlo. Ne sono quasi certo. Visto che cerco di fare no. Ne sono quasi certo e... Ha detto che ha una sola spell per sigillare. Un solo sigillo a disposizione. E ci può tornare utile. Per adesso. Anche tu puoi lanciare l'incantesimo, no, Lieto? Sì. E allora non ci serve lei, ci serve l'incantesimo, no? È vero. Ma cosa vuoi fare? Vuoi uccidere anche lei? Se posso, no. Però hai visto cosa sa fare. E se continuerà a mettermi i bastoni nelle ruote, lo sarò costretto a farlo. Alzo un sopracciglio. Guardo Miff. Hai una pergamena. È spaventatissimo in questo momento. Ha la bocca coperta. Luca sta da terra, fai su di te. Nibel, poggiala per terra. Può rispondere con le mani. Hai una pergamena, Miff? Dammi la pergamena. Miff, non mi sembra il momento di contrattare. Non mi sembra il momento di contrattare, non è che c'è una risposta corretta, non è no. Sollevo Miff oltre il balcone. Miff in questo momento si aggrappa al tuo braccio e semplicemente ti guarda. Mi sporgo a lungo la mano, Miff, dammi la pergamena. Non farmelo fare. Miff guarda Devin. Cosa sta facendo Devin? In questo non momento? È dove l'hai lasciato l'ultima volta. Cosa? Devin sta andando a riprendersi la sua merda di pistola, perché è la sua pistola. Esatto. Se l'ha guadagnata. Ha senso. Però loro non hanno notato. Tu l'hai notato che Devin sta facendo dell'altro. Miff casta. Cosa casti? Miff può castare. Puoi castare. Posso castare? Fai power contro la principessa. Cos'è che Miff fa? Che terrified. Emotional power contro la principessa. La principessa subisce danno e basta con i power? Sì, tecnicamente sì. Dammi un attimo. Sì, subisce danno e SD6, quindi 3D6 da oscurità. Non... Per castare deve parlare? No. Ha un ciondolo che le permette di farlo. Senza. Ma che notte, e voi non l'avete mai visto. Ok, sì. E allora... L'ho usato una sola volta in campagna e non era in presenza del party. Esatto, e solo Adone l'ha visto il ciondolo tecnicamente. Sì. Quindi voi vedete tipo una luce che irradia, la principessa subisce danni, Devin fa il giro intorno a voi, ha castato Hasten per essere più veloce, e cerca di prendere la pistola, la principessa non la lascia e non lo fa neanche apposta. però la spinge. E la principessa è terrorizzata, scivola contro il balcone e cade di sotto, mentre la pistola rimane in mano a Devin, che dice: oh cazzo, questo sta per delle conseguenze. No ragazzi, e cioè state vedendo la principessa cadere. Prego. Nibel, onestamente non hai non ha i riflessi nell'attenzione al momento per poter reagire a questa cosa. Non abbiamo dato una descrizione out of combat di Emperor of the World. Ce l'ha o non fa niente? Ferma il tempo. Then... 5 di mana? Che cazzo vuoi che sia? 5 di fatica. Devo mettermi il coso. Allora. Vai, vai, bruci 5 di fatica. Basta che sei nel 5 fatica. 2, 4. Ah, vabbè, sì, stavo togliendo dall'attuale. 11. E guadagni l'esperienza, è una teurgia, quindi guadagni più 3. Teurgia, 9. Yes. Fa la roba di Dio. Una sfera intorno a voi in cui si ferma il tempo. E puoi muoverti liberalmente, lieto. Gli altri devono rollare per potersi muovere. Fatto, non ho abbastanza. Aspetta. È con teurgia all'1 che sono immune io. Sì, ok, io non devo fare un cazzo di niente. Sì, io con moltissima calma vado a riprendere la principessa. E la tiri su. Mentre lo fai, noti che c'è qualcosa di strano nei suoi occhi, come se ci fosse all'interno del terrore che la magia di Mif le sta trasmettendo, un fuoco, ma non metaforico, come se l'interno dei suoi occhi andasse a fuoco. Vabbè, tanto c'ho tutto il tempo del bond, I guess, e chiudo gli occhi e parlo con il mio più grande amico. Mi sembra disponibile. Lo facciamo tra un secondo. Vai. Ti risposto su. Certo. Ok. O si mutano gli altri. Ma secondo me te la possiamo fare qua e basta, e cerco di essere sneaky. Vai. Ho detto che perdevi il controllo. E quando perdi il controllo, perde il controllo anche una parte di te. Immaginavo. E quindi la stanza sta andando a fuoco. Qualunque cosa tu abbia davanti, stai cercando di incenerirlo. E questo è ignifugo. Per cui, almeno da quel punto di vista, high ground. Però i suoi tentativi di fermarti e combatterti non hanno successo. Hai un barlume di lucidità. Cosa vuoi fare? Non puoi parlare. Barlume di lucidità. Ho idea di quanto avrà un effetto questa cosa? No. Cioè, sembra che l'effetto scemi man mano. Quindi se ora hai un barlume di lucidità, tra pochi secondi, tra 20 secondi sarai libero, forse. Non voglio fare questa cosa, però, uffa! Vuoi scrivermela intanto faccio la cosa di lieto? No, credo che io userò la mia icore. Concedo di lanciarle tutte e tre su di lui. Scegli quale tipo di dado tirare. Direi 6. Rolla 3 di 6. E il signore mi sa che ci sta per salutare. You don't. Dammi un attimo. No, ce n'ha ancora di vita, ce n'ha. Cena, gli spari i fulmini e lui come reazione rilascia delle fiamme che incendiano la stanza, e lo dico a tutti perché appena la time bubble di Emperor finirà, quello che vedrete è la stanza che esplode tra fulmini e fiamme. La stanza del palazzo dove c'era... E ok, hai invocato Arva. Ti serve aiuto? Guardo Arva, guardo la principessa, indico la principessa. Quanto casino fa questo? Exodac che si finge umano. That much I gathered. Potrebbe effettivamente aiutare Nibel, ma credo che sia più interessato a riprendersi il suo cuore e prendere la sua vendetta. Lo posso mangiare? Sì. Hold the phone! Devi mangiarlo! Poiché Fyrd è ferma nel tempo, nulla ti impedisce di farlo. E puoi consumare questa persona alla percentuale che vuoi. E ancora con Arva. Rimane qualcosa dell'essere umano precedente? L'essere umano precedente non è mai esistito. Quindi non questa è una... È una neonata che non ha mai avuto l'occasione di vivere la sua vita. Prima rubata da una multicentenaria e poi da un diavolo. Quindi gli faccio solo un favore. Esatto. Se esiste un paradiso, un limbo, è lì che finirà. Dietro ci penso un attimo e poi si azzanna. Quello che non ti aspettavi è che è fottutamente coriacea. Nel senso, hai già provato a zannare la gente e le ossa di questa persona sono fatte di un metallo più duro del ferro, per cui le fai... Vai, dimmi. Cioè, Vito puntava all'anima e anche l'anima è estremamente coriacea. È okay. Devi proprio ucciderla per prendere l'anima. E... I mean, sì, sì, finisce tutto. Sì, sì, sì. Vai, fai più che puoi. Cioè, per voi si è fermato il tempo. Quindi, quello che vedete è che il tempo riparte. Per voi è passato una frazione di secondo. C'è Davin che ha letteralmente appena spinto per sbaglio la principessa e in mano la sua pistola. C'è Nibel che sta ancora tenendo Mif. Mif che ha appena castato una magia causando inavvertitamente la morte della principessa dal suo punto di vista. E succedono due cose contemporanee. La prima è che c'è un'esplosione provenire dal palazzo che stavate guardando, con fulmini, saette e fiamme che escono fuori da quella stanza, e al centro di questa cosa c'è una figura fatta di fiamme a questo punto che vola di sotto. La seconda cosa contemporanea è che dalla principessa schizzano fiotti di sangue in tutte le direzioni. E voi lo vedete come se fosse scoppiata un palloncino di vernice. E la terza cosa che vedete è un mostro, perché non c'è altro modo di descriverlo, che sta risalendo aggrappandosi alla parete il campanile. E provo a descrivervelo, è un demone quasi archetipico. Ha delle corna, la pelle di un nero innaturale, nero, viola, blu. Non indossa vestiti di nessun tipo, ha gli artigli molto lunghi, ha delle piccole ali vestigiali che non possono volare, le gambe pelose che terminano con zoccoli con i quali si aiuta a salire, e sta urlando nella vostra lingua, cioè nel linguaggio comune, a lieto: fermati! Vi entriamo in combat, nel senso che ora fate un turno a testa e rollate un D20 per vedere chi parte. Oh mamma mia. Anche tu, Sirio, eh? Sì, sì, ci sono, okay. Ci sono. No, era per... magari non era chiaro. Sirio, certo. Per ultimo. Prima ovviamente. Mika è ancora sospesa da... Lieto? Ah, per secondo, ok. L'avevo visto. Mika no, è ancora sospesa che è per secondo. Osse per secondo, sì, scusami, è... scusami, scusami, vedete per terzo, okay, scusami, scusami. Sì, infatti Mika è ancora sospesa e cioè io penso che si aggrappi molto forte a Nivel. Oppure, aspetta, quanto è esposta rispetto a... esposta rispetto al terrazzo? 20-30, cioè la lunghezza del braccio di Nivel, giusto? Sì, sì, sì. Quindi... Quale pezzo. Braccio? Quale braccio? Che sei paralizzata? Vedo... Sei incongelata, Sara? No, sei congelata. Bellissimo. La canna. Togli e rimetti. Bellissimo. La canna. Ok. Successo, Pjanic è girato da entrambi i lati. Sì, esatto, è tipo Beck sta tornando con il braccio infetto. Ok. Il suo braccio destro. No. Non la sentiamo neanche in realtà. Non ti sentono nemmeno. Ora la sentite? Prova a parlare? No. No, non la sentiamo. E chiudi e riapri Discord. Ma non dovrebbe fare... Cioè, non è quello che succede quando si scalda. No, infatti. Sera ancora. Ok, ci sono. Vedo di nuovo il Pjanic. Abbiamo il Pjanic. Esatto. Para. Okay. Entra. Adesso vedo. Para. Ci siamo? La. Non sì, la vedo sì, ancora, sì. Però. La. Siamo. Ok, adesso la sento anche, perfetto. Ok. Siamo tornati, amici. Dove eravamo rimasti? E se mi iniziasse a dondolarsi, Master. E nel braccio infetto di Nivel, che è già messo a merda, cascasse destroy. Puoi provarci. Mi devi non rollare destroy nell'aria. Eh no, perché sì. Si sta dondolando. Cioè si vuole dare lo slancio per andare in avanti, togliere la presa e così riesce a saltare. Mi fai il roll dei danni di destroy e mi fai il roll di acrobazia, come si chiama questo sistema. Allora dammi un attimo che devo vedere quanto è destroy. Acrobazia c'è un bellissimo più zero. Sicuramente infatti. Non avrà conseguenze negative. Ovviamente. Allora, sono 3 di 6 di destroy. 13 e adesso faccio l'acrobazia. 2. Grazie per averlo fatto. Prego. Il braccio già malmesso di Nibel, quando fai destroy, scoppia. Okay. Nibel non senti neanche più danno. Cioè, probabilmente ha distrutto della roba che non era... più viva da un po'. Aumentati per favore. Grazie. E quindi non senti nulla, anzi senti che i funghi si stanno già rigenerando e quindi la parte che ti interessa è completamente attiva, solo che hai perso le dita, hai perso il polso, hai perso quella parte lì. Sì. E le briciole di questa cosa, come se fossero state compresse con tantissima forza, vengono lanciate in tutte le direzioni. Mif cerca di darsi lo slancio verso il palazzo e non ci riesce minimamente e cade nel vuoto. Siete nell'edificio più alto della città, sesto piano. Questa banda di deficienti. Tocca a Nivel. Nivel, ti è appena partito un braccio e c'è una persona che stai tenendo che sta volando di sotto. Ho modo di usare la mia azione per afferrare Mif. Sì, fai un roll di sollevare, quindi è un roll facile. Ok. Sei l'uno più chiamato di tutto. Madonna, veramente. Lui c'è l'eroe, c'è l'eroe. Dimmi se basta, perché basta, mi dice basta. Okay. Nonostante ti abbia appena fatto esplodere il braccio, la riprendi con l'altro. La prendi da sotto il suo di braccio, quindi la come un bambino che lo stai tirando su dalla culla. E guardo la situazione un attimo, perché cioè, vedo l'esplosione. Sì. E quindi a parte afferrare Mif, la mia preoccupazione è devo difendere la principessa in questo momento, quindi mi giro per vedere come sta. La principessa ha avuto uno schizzo di sangue, quindi è ferita chiaramente, e sta volando nel vuoto verso il demone che sta risalendo il palazzo. Non ti è chiaro quali siano le intenzioni di quella creatura. La principessa sta fluttuando? No, sta volando verso il basso come una persona che... Ma lì tu l'ha fatta cadere? Cioè, pensavo l'avesse portata in salvo... L'aveva messa sul balcone? La voce che ha detto... Scusa, pensavo l'avessi azzannata da fuori. No, tutta la scena è andata sopra. La voi come proprio su e la scena è andata sopra. Scusate, allora faccio il roll per Fear. La principessa non è più feared, quindi si è ripresa nonostante le ferite e il sangue che schizza ovunque, e si sta preparando chiaramente a fare qualcosa. Tipo castare una spell, realisticamente. Nibel non sa esattamente cosa fare in questo momento. Nibel tira su Mif. Ammazziamo il demone. Literal demone. Cioè, l'ha descritto come il demone più prototipico in assoluto. Allora, prendo Mif, la tiro sul balcone. Grazie. Oh. E... Limite se posso farlo, voglio castare Overpower. E il demone sta salendo la parete qui dove ci troviamo adesso. Sì. Ok, e voglio saltare su oltre il balcone e tipo fare un dropkick sulla testa del coso. Certo che puoi, non devi neanche chiederlo, rolla per colpire. Perfetto. Ti do pure vantaggio. Ok. For style points. Fammi prendere la scheda del demone. Corpo più metà del corpo per precisione, che quindi era più 6... più la competenza, che senza armi più 3, quindi più 9. Te l'ha appena tirato una testata nucleare adesso. Fatto 15. Questo è per colpire? Sì. Perfetto. Double checko. Se ti dicessi che non hitta? Uso prowess. Vai. 18. Entra. Vai. Guarda, ti direi che uso un punto di Beast Power e se me lo permetti faccio Claw. Sì. Quindi tipo faccio due attacchi, quindi con i due piedi in faccia. Vai, sì. Roll 2d6 più... In realtà questo è un attacco, quindi dovrei fare il tiro per colpire anche per il secondo. Quindi faccio un d6. Vediamo i danni com'è che erano. Aggiungo... mentre la attiva aumenta i danni dei tuoi attacchi senza armi di metà del tuo rosso. Ok, quindi di più 2. Di 6 più 2. Sono 5 danni. Ok. Roll di 10 più 9 per il secondo attacco. 17. Minchia, buono. Colpisce? Sì. Tondo, colpisce tondo. Roll di 6 più 2, sono 3 danni. Io ho usato... No, posso fare anche Kickmaster, mi pare. Sì, puoi fare un altro attacco. Perché spendere... Ok, sì. Faccio un altro attacco, roll di 10 più 9, 10, questo uno purtroppo. Dovrei avere un'altra carica di prowess, mi sa. Sì. Non entra. Posso farlo una volta solo per turno, due volte per incontro, ok. Sì, una volta per turno, però. Ah, una volta per turno? Sì. Che mi sembra ci sia scritto sul manuale. Ok, non c'è scritto qua, però mi fido di te. Allora... Niente, mi sto il terzo attacco, allora... Ok, basta, ma soprattutto quello che fai è fargli perdere l'equilibrio, e si stacca e cade verso nel vuoto. E è questo a fargli i veri danni, più di tutto il resto. In realtà cade bene, cade elegantemente. E mentre cade lo sentite urlare: madre! Madre? Sì. Tecnicamente... Tecnicamente sono caduto anch'io, cioè mi sono proprio buttato di peso. Sì, sì, sì. Cadrai al turno successivo. E sarà meno grave di questa cosa qui. Ok. Hai finito il tuo turno, il prossimo mi pare fosse Lieto. Devin è ancora qua con noi. Devin ha la sua pistola in mano e non ha avuto il tempo di fare nient'altro. E Devin, potresti sparare al demone per piacere? Non a lei? Whichever you prefer, I guess, sono la solita cosa. Lei. Ho bisogno di un secondo perché la sua scheda è da un'altra parte. Lo fa adesso per motivi di fighezza. 20 entra, credo. Double check perché ormai non siamo ai livelli alti, quindi tutto può essere. Però dovrebbe entrare. Sì, 20 entra. E i danni di questa cosa sono... un D8 più 5. Ah, e poi un danno sacro. Quindi sono 11-12 danni. Un 12... Ok, qualunque tipo di danno sia quello della pistola, sembra che la tipa sia la principessa sia resistente. Quindi non subisce così tanti danni e non la prende in fronte come aveva fatto col magi, quindi non la one shotta come aveva fatto col magi. E in realtà posso sparare di nuovo. No. Boh, tutto qua. E puoi fare ancora tutte le tue azioni, cioè questa qua non era un'azione, era una cosa che hai detto. Sto pensando a cosa fare. E pa. E no, non c'ha particolarmente senso. E... ma sì, dai. Sta una palla di fuoco sulla principessa. Ok. Mi rolli... devo rollare io per evitare, giusto? O resistere? Devi rollare tu per evitare, sì. Evitare e uso... rollare. Prima di castarlo uso anche l'abissal, il rosario abissale, quindi ho un S in più, in teoria. Fallisce completamente l'evitare. Puoi tirare i danni. Ok. I danni sono un D4 più di S, c'ho di base 3, mi pare. Giusto, è speciale, no? Se, 5. Dialettica più 1. Sì, ok, sono 6 di 4. 5. Puoi rollare 6 di 4. 13. Anche ai danni da fuoco sembra essere resistente e te ne accorgi perché gli bruci la pelle, le bruci la pelle, e sotto ha uno scheletro fatto di metallo, il quale non brucia. Non brucia, giustamente. E quindi, aspetta, Fireball mi ha tolto, sono a 8 di fatica. Quindi se ho fatto 30 faccio 31 e faccio rewind. Rewind è per rifare completamente il turno. Yes, se non gli ho fatto un cazzo di danni, tanto vale che hai go back. Vedere. Se vuoi rerollo anche quello di Devin, però ho fatto 6, quindi se rerollo statisticamente faccio meno. No, ma è solo il mio turno, rewind. Devin ha sparato durante il tuo turno. Vabbè, dai. Come vuoi, posso anche non rerollarlo quello di Devin. Cioè, se ridici le stesse cose, lui rispara nello stesso modo. I guess è l'ora di provare the new and improved Malavolver. Sulla persona che te l'ha regalato. Sì, no, infatti non voglio farlo in realtà, però sono tipo alle strette con che cosa farle danno. Quindi o è Thunder Call, ma Thunder Call ci mette un turno. Sì. Thunder Call. Posso castarlo diretto solamente se con un TK6 che non possiedo. Thunder Call, vai. Casti Thunder Call sulla posizione dove si trova la principessa. Yes. Quindi all'inizio del prossimo giro subirà un fulmine. Sempre col... Sì. Togliti la fatica della Fireball e rimetti e che... metti quella. Costano quello identico, quindi allora, non c'è posto. Niente. L'altra cosa che ti volevo chiedere è... Vuoi far dell'altro? Arva. Dimmi. Quale dei due è meglio da ammazzare? E perché ha detto madre? Usa Future Glimpse. Lieto è un bravo soldato. No. Lieto sa accettare gli int quando li vede. Sì. Usi Future Glimpse. Sì. Vedi nel futuro... Vedi qualche secondo nel futuro, vedi lei, la principessa, che si sta lamentando e dice: non importa quante possibilità io vi dia, voi mi tradite sempre, nonostante tutti i regali che vi faccio. E senza motivo, poi! E quello che vedi è che trasfigura il suo braccio già bruciato, cioè ora non è più bruciato, quindi trasfigura il suo braccio in un cannone e inizia a sparare. E sei a lei. Il demone di sotto si riprende e riprende a scalare la parete del campanile dicendo: non uccidetela, vi prego, dovete solo stordirla. E non attacca nessuno, tanto c'è Nibel che pioverà nella sua testa per la seconda volta al turno prossimo. Faccio un'idea, vabbè. Thunder Call se vuoi. Sì, allora facciamo così. Tanto Future Glimpse è un'azione extra, quindi sì. posso tirare una magia extra, una cosa sì. base. Quindi c'ho 5 di fatica. Non possiedo una maniera per stordire la tipa che non sia... No. Farle cadere in testa un masso gigantesco. Bonk. No, no, un'altra forma di pecorino. Li genera dal nulla. Nibel è saltato di sotto. Io ho castato un'altra spell, quindi ho un'altra cosa di movimento. Mi sono dimenticato fino ad oggi di avere speed up. Praticamente. Adesso me lo sto segnando. È un buon momento per ricordarsi. Un momento per ricordarmelo, sì. Vabbè. Dovrebbe essere ancora un essere umano? No, perché ho visto che è fatta di metallo. E l'unica cosa che mi viene in mente è un romanzi di Mif. Prima ha funzionato. Ha funzionato. Bene. Casto litogenesi. Lietogenesi, scusa, c'hai ragione. Vorrei intrappolare il corpo nella roccia. nella roccia completamente, se possibile. Puoi anche farle danno o no? No. Ok, perfetto. Crei una struttura che le impedisce di muoversi. Durante il suo turno poi tenterà di liberarsi e ti dico già che ha più zero a fare questa cosa. Fine del tuo turno, giusto? Sì, sì, sì. Benissimo. Questo è il terzo di speed up. E... Scusate, ci ho messo un po' a fare questo turno. Non ti preoccupare, è fisiologico a sto punto del... Sì, sì, infatti. Te la lupo anche? Se vuoi. Hai ripreso completo controllo su te stesso, hai visto il tizio volare di sotto per colpa tua parzialmente, e sei libero di fare quello che vuoi. Esco a vedere il tipo che cade, appunto, dispiegando le ali, anche perché credo che ormai non c'è, rimane poco della stanza. Sì, sì, sì, c'è un buco nella parete. Quelli che guardano la stanza, o quelli che vedono, l'essere notano... gigante che vola, qualche veste, la faccia di Adone, proprio lui. Non l'ha notato nessuno. E vi mando quello che ho preparato. Oh, finalmente. Aspetta che mi serve anche l'altra cosa. Dove lo mandi? Lo manderò su Fateless. Questo deve essere una... Non lo posso mandare su Fateless, perché? Ah, davo... C'è solo io e i Kai poteri. Lo metto qua sulla chat. Sì, lo riposto io. Scusa, sì, me l'ho dimenticato di... Non preoccuparti. Hai rovinato tutto. Oh! Questo design completo. Bello. Oh! Figo, figo, figo, figo. Non alto, diciamo... 2,50 m. Ogni volta che lo dici aumenta. No, era 2 metri... No, era 2 metri... Ok, no, 2,40 m. Era 2 okay. metri... Vede... il tipo cadere a terra e tutta risposta torna da dove è venuto. Ok, possiamo tirar giù la maschera. Sei nella stanza della Mukelos, quindi dimmi cosa fai. E la Mukelos, quando mi vede, è spaventata, terrorizzata, cioè considerando che immagino che apri la porta come hai fatto prima. Certo. E già con tutto il trambusto se l'ha ricomposta. Quindi sembra che abbia appena ripreso in mano le sue cose. Lo vedi perché la borsa che ha ce l'ha proprio in mano, non ce l'ha a tracolla, non è indossata né niente. E ha lasciato dei fogli sparsi sul tavolo che ha dietro. E quando ti vede fa un passo indietro, ti guarda, ci mette un attimo e dice: non ho alcun motivo di temerti, vero? Corretto. Non sono qua per ucciderti. Indossa la borsa e dice: mio angelo custode, guidami. Porgo la mano sinistra, quella su cui all'anulare sinistro c'è ancora una fede che brilla, e dico: le forze che ti vorrebbero morte mi sono avverse. Non desidero la tua morte e che il mondo finisca in caos. Sono qua per portarti lontano, perlomeno. Prende la tua mano e dice: guidami. La Buon prendo via. A mo' di sposa. Ok. Siamo a due. Sì. Puoi uscire dalla finestra, puoi bucare il soffitto, puoi uscire dove cazzo ti pare. Sì. Dimmi te. Vedete questa creatura... probabilmente esce dal buco già fatto, in verità non ha motivo di fare lo sborone. Un altro. No. E dove vai? Cioè, in che direzione vai? Oggettivamente la voglio nascondere, nel senso non è... Però è un po' difficile nascondersi in questo momento. Aspetta, devo un attimo vedere chi è che non deve morire. Una piccola voce ti sussurra all'orecchio. Quale posto più sicuro che la testa di Senic in questo momento? Quale voce me lo sussurra? Quella gialla. Ah, ok. capito? Le voci gialle. Una trappola, fa... Siamo al punto in cui Adone non ha più le voci in testa, ha i colori sinestetici in testa, ok? Ha un livello di follia totalmente nuovo. Anche perché Adone è morto, quindi... Sì. No, no, è per dire, il personaggio di Sirio. Sirio. E... Sai cosa? Ma che cazzo me ne frega? Va bene, andiamo sulla testa di Fenix. Però no, devo essere lì comodo. Sì, mi serve che mi dici dove vai per poi dirlo agli altri, non per altro. Altrimenti non ti starei rompendo il cazzo. No, no, no, è che devo capire cosa voglio fare. Quanto ci metto ad andare alla testa di Fenix? Un paio, qualche minuto di sicuro, perché comunque sono una ventina di chilometri in orizzontale e un centinaio di chilometri in verticale. Cioè, più risalire. No, niente. Va bene, sì. Perfetto. Volo verso Fenix. Cambio musica, se non ti scoccio. Certo, prego. Hai appena fatto la tua scena da cattivo della trama. Oh, santissimissimo. Ok. Abbiamo fatto il turno di tutti i personaggi. Devin ha sparato alla principessa durante il turno di Ika e quella è un'azione base. La sua azione successiva... Dammi un attimo, troppe schede. Visto che hai creato una protezione di pietra sopra di lei, secondo voi quanto è credibile che una fiasca che aveva nei pantaloni sia sopravvissuta fino a questo punto? La principessa? No, di Devin. Capo. Non è particolarmente... Non so cosa gli è successo prima, però... Non è particolarmente credibile. Ma lo deciderei i dadi. Lo deciderei i dadi. Sono d'accordo. Sì, dipende da quanto è ignifuga quella roba lì. Ogni risultato del D20 è un 5%, quindi decidi tu quanto... Sì, esatto. Cioè, scegli un numero e lancia. Birio, dammi delle percentuali e rollerò. Quanto è grande la fiala? È una fiala di queste dimensioni, larga così, di vetro, di un materiale un pochino più, cioè un vetro resistente, fai conto. Secondo me c'è un 40% che si è rimasta lì, perché ha anche volato. Sì, sì, sì. E non è che il mio personaggio se ne freghi tanto. Sopra il 60 ce l'ha. La fiaschetta è andata in mille pezzi e il liquido è stato sparso per la città, dove non crescerà mai più l'erba, tra l'altro. Queste sono conseguenze. Essendo impossibilitato a fare questa stronzata, che secondo me era molto divertente, cosa possiamo fare? Qualcuno di voi è ferito? Vabbè, Nibel. Nibel è lievemente dietro. Giusto, quanti... No, scherzavo, neanche lievemente dietro, non c'è... Quanti danni mi ha fatto Mif? Non ti ha fatto danno, ha distrutto il braccio e non ti ha fatto danno perché non c'era più niente di vivo. Ah, ok. È come tagliarti i capelli. E Devin, forse per guadagnarsi la tua fiducia, forse per altri motivi che ci sfuggono in questo momento esatto, ti mette una mano sul moncherino e ti rigenera il braccio di carne e ossa. È mio? Sì. E io non ero caduto? È vero! Nibel era caduto! Oh mio Dio! Sarà una mappa per queste cose qua, è l'unico motivo che sarà la mappa. Sì. Io mi ero buttato giù per buttare a terra il demone. Vabbè, fanculo, c'ho shapeshift. Sì, no, questa è una figata. Crea un altro di quei tubi come ha fatto prima per prenderti al volo. Realisticamente non è abbastanza solido da sostenerti, però attutirà la tua discesa o comunque ti rallenta. In realtà Devin ha un'ultima azione da poter fare, perché questa era un'azione perché ha Hasten ancora attivo. Sei il master, fai quello che ti parla, non lo scopriremo mai. No, Hasten attivo. Sono d'accordo. E quindi, considerando che tu sei il suo miglior asset, fende per la cosa e ti rigenera il braccio, aggrappandosi a te, standoti sulla schiena. Sì. Ehi, a buon rendere. La principessa cerca di liberarsi e guarda proprio lieto negli occhi e dice: perché mi fai questo? Non dice più l'altra frase, visto che hai cambiato le cose. Non mi... Quali sono le tue intenzioni? Quelle vere? Voglio prendere la mia vendetta con il maggiordomo che sta risalendo questa cazzo di torre. Quello è il maggiordomo? Quello è il maggiordomo. Quale diavolo è? Mi sa che ti sei perso un pezzo, ragazzo. Io sono il diavolo. Ha detto madre prima. Questo corpo potrebbe averlo generato. Ok. Lo vuoi uccidere? Credi che abbia ucciso tuo padre? Tecnicamente è vero. Tecnicamente è vero. No, no, è vero, però... è vero. Io non sto dicendo nulla. È vero. È verissimo, è verissimo. Sì, sì, è verissimo. Cazzo, mi sono dimenticato che ha ammazzato Zan Zan. Come era la scena adesso? Eh sì. No, no, mi serve refresh, però. Si è suicidato per uccidere il maggiordomo. Il maggiordomo, è vero. Erindor poi... l'ha fatto esplodere, tecnicamente. Erindor l'ha fatto esplodere, sì. Sì, sì, però sì, Erindor sì, era tipo piccolo, Zan Zan era Goku e il maggiordomo era Radish. Quindi chiaramente vabbè, è tutta colpa sì, di Radish. Sì. Che citazioni elevatissime, eh? Porca troia. Tra l'altro è uscita adesso la roba della Saiyan Saga su Dokkan, quindi hai visto. Lieto c'ha un attimo un twitch all'occhio, è tipo... Questo non è una cosa che mi sarei aspettato da questa situazione. Quindi vuoi ammazzare il maggiordomo? Esatto. E una volta che sarà morto? Fare quello che ho sempre voluto, cioè evitare di finire dentro una centrale. Nella centrale ci mettono anche i diavoli, lo sapevamo già questo? O è una novità? Sì, esatto, il Biff tipo fa, sì. Va bene, non mi interessa a sufficienza questa cosa. Se posso sciolgo il... Lo puoi fare durante il tuo turno. Posso fare durante il mio turno, sì, allora però lo quindi dopo. Lei skippa e vedendo... che le cose sono tranquille, si rigenera le ferite. È l'unica azione del suo turno, quindi. Quanto costa sta roba? Ok, ce l'ho. Chi tocca? No, ci sono ancora altri personaggi. C'è il maggiordomo. Il maggiordomo sta risalendo la torre. Nibel e Devin gli stanno cadendo addosso e il demone maggiordomo si teletrasporta, fa puff diventando una nube di fumo nero che ricompare 5-6 metri più in alto e riprende a salire e arriva in cima al parapetto della terrazza. In tutto questo, se ve lo stesse chiedendo, Marika e Deimos hanno portato via i coglioni. Vabbè, nel senso, cioè, hanno cosa fatto dovevano benissimo. Fare? Già li dovevano portare via prima i coglioni con noi. Sì, esatto. Se literal demon coming up. E non c'è nessuno di voi che ha motivo di avere delle opinioni su questa creatura, a parte il fatto che è molto brutto, indubitabilmente brutto. Per cui è un trust shenanigan, se fidarvi di lui o della principessa. E anche lui non vuole combattere. Finora, se ci avete fatto caso, non ha ancora fatto del danno a nessuno. E nonostante abbia una forma, come si dice, una postura strana, dice: Mif, devi riaddormentarla. Io non so se sia la scelta più saggia riaddormentarla. Sadak vuole uccidere tutti gli esseri umani. Questa è la vendetta che vuole. Sì, appunto, forse è meglio sigillarla. Alza uno dei suoi orrendi sopraccigli. Mi fa dal suo. Non mi sembra una cattiva idea. Ok. Falle abbastanza male. Non mi sento a mio agio a fare del male. Dai! Mi fa... Me l'ero dimenticato. Dovrei farlo io con te davanti. Interessante. Bene. Non puoi fermarla e basta. Non so se vada a segno. È ancora entombed all'interno della, sì, della pietra. Esatto. Cioè, fino a che non è il mio turno. Esatto. Fammi vedere un attimo una cosa di romanzo. Master, appena che non sia... Almeno che non sia scritto su Pentagon, non c'è scritto da nessuna parte che... Che? Che una cosa di roccia la protegge dall'effetto. Non la protegge manco per il caso. Da Neuromancy no, era dall'altra... Cioè, lascia stare. Vabbè, poi puoi castare un Neuromancy e addormentarla quando vuoi. Ok, ok. Bene. Lo fai? Ah, è il mio turno? No, che... Cioè, lui ti dice se la vuoi addormentare... Cioè, se la vuoi sigillare, preparo la roba. Dimmi te cosa vuoi fare, non ho capito se la vuoi sigillare o se vuoi ascoltare Coso. E Coso chi? Cioè, voglio ascoltare Eidos, sì. Ok. Cioè, io gli ho detto cos'è che vuole fare Mif. Cioè, gli ho detto, per me è meglio sigillare una cosa del genere piuttosto che lasciarla attiva tutto questo tempo. Se la vuoi sigillare, la immobilizzerò con la magia diabolica. Vai, aspetto il tuo allora. Molto rapidamente traccia per terra intorno alla gabbia che ha fatto Lieto dei segni con le unghie graffie al pavimento per fare un sigillo diabolico. E quando ha finito dice, quando vuoi. Siamo fuori combat. Quindi faccio prima Nibel ed Evin e poi gli altri. Nibel, stai cadendo lentamente verso il basso. Se... non hai qualche idea strana, rolli per acrobazia per non per non farti male cadendo. Sì, col nuovo braccio ritirato cerco di conficcare le dita nella parete per rallentare la caduta. Ok, puoi rollare sul fisico. Ok, roll fisico puro? Puoi usare acrobazia ma su fisico, quindi hai più 5 totale. Quindi come far arrampicare? Sì. Fondamentalmente sì. In realtà è un più 2. Sì, perché hai cosa, giusto? Hai un più overpower. E riesci a rallentare la tua caduta e puoi arrivare o a terra o in prossimità del primo piano, però poi non c'è modo di rientrare se non dalla porta. Rimango in prossimità del primo piano e dico a Devin. Quindi cosa? Qual è la tua idea? Vuoi uccidere la Mukelos? Sì. Ha dimostrato di essere pericolosa e secondo Shibira forse un altro di quei cosi. Quindi... cerchiamo una giovane di umili natali per ammazzarla? Vedo che sta scappando la Mukulos. Sì, hai visto proprio che volava verso la testa di Senec. Quanto lontano? In orizzontale circa 20 km. In così un bel po'. Prima dobbiamo riportarla qui. E punto la mano verso di lei e prendo una moneta... poi ne prendo 2, poi ne prendo 3, le rompo tutte e 3 e lancio Incantatum Maiklon. Devin si lancia di sotto, con tutti i riflessi che può avere, e te lo faccio fare perché è troppo figo per non farlo. Adone, stai volando tranquillamente. Non hai motivo di credere che qualcuno possa arrivare così in alto. Finché non senti un solletico alla tua gamba e poi una miriade di mani che ti prendono e ti tirano verso il basso. Voi altri, dalla cima della torre, avete qualche secondo per interagire tra di voi e decidere da farsi. Quindi vi faccio parlare, poi succede sta cosa. E Mif si avvicina al coso e è ancora sigillata, immagino. Sì, è ancora in pietrita. Cioè, in pietrita, esatto. Lieto. Sganciala. Dammi un istante. Arva. Sì. Questo ci ammazza tutti. Sto guardando la principessa. Non è da escludere. Non ho idea di cosa voglia fare a questo punto. Il dio del tempo e non sai cosa succederà. Riapro gli occhi. Mi sa che è un toss up qua. Fate quello che vi pare e libero la... il corpo. Un attimo. Se ti tocchi, sì. Però lo stai facendo davanti a tutti. Sì, sì, ok. Mif si tocca l'orecchio e fa... Senti, Shivira, sto per sigillare Xadak. No, è il suo cazzo di firmatario. Volevo fare la battuta del... Il numero cercato è al momento irraggiungibile. No, non lo fa. Non lo... Scusa. Sarebbe molto divertente. Sì, cazzo. Shivira che va a pisciare per un secondo. Sì, cazzo. Cioè, Dio vieti che quando vedrete Shivira... farà meno ridere questa cosa. Vuoi usare l'ultima carica per quello? Diciamo che il figlio non mi permetterà di ammazzarla, che avevo voglia di fare quello, ma guarda Eidos, nulla di personale. Salutami e... Eidos. Ti saluta Shibira. E che altre alternative ho? Sigillare la cosa di fuoco che sta per incendiare la città. E lasciare questa libera? Incazzata come una iena? Poi sono io che le devo gestire le cose, quindi cioè... Ehi, sei tu a sapere se sei più in grado di gestire quello o il coso di fuoco. Se pensi di gestirlo, fallo. È parte del tuo addestramento capire cosa riesci a fare. Non sono un soldato, Shivira. Toglie il... toglie la cosa dell'orecchio. Il microfono tagliato. Io mi sono mutata, ho sbagliato. E secondo l'impero c'è qualcosa di più pericoloso che è appena uscito da quel palazzo. E si gira verso Eidos e fa: se vuoi l'addormento, dura 27 minuti. Quindi devi trovare un modo. Su di lei non dura 27 minuti. Lo uccidiamo, l'altro coso non c'è problema. No, l'altro coso deve essere sigillato, devi aiutarmi. Lo sigilliamo, l'altro coso non c'è problema. Ok, perfetto. Anzi, è Eidos, quindi... Lo sigilliamo un'altra cosa, non c'è problema. E Mif fa... Deve essere per forza un iromanzi o vanno bene tira fuori i sonniferi? Ma no, le date a me! Non ce l'hai ancora! Quattro. Wow. Quattro te ne ho date. C'è un solo modo per... C'è un solo modo per scoprirlo. Mentre fate questa cosa, bene. Vedete che da sotto la torre compare un filo che sta venendo lanciato verso il cielo e mentre parlate vi girate tutti a guardarlo perché è un cazzo di filo che sta girando verso il cielo e poco prima quelli che ci hanno fatto caso hanno visto un angelo volare verso il cielo e il filo va più veloce dell'angelo, lo afferra e una miriade di altri fili lo prendono e lo tirano a terra e... Sarebbe carino chiudere la sessione qua, ma ho un'altra cosa da fare. E niente, non subisci danno da questa cosa, vieni solamente atterrato. Ad Nibel o da dai fili? I fili sono le robe di Nibel che da lontano sembrano dei fili. Ah, ok, scusami, non avevo capito. Ho connesso le due scene. E sei negli outskirts della città, cioè sei proprio al bordo della città, nel tempo che è riuscito a farlo. e questa roba ti sta tenendo a terra. È fatta di piante, roba viva, e la Mucelos perde l'equilibrio e viene lanciata diversi metri più in là rispetto a te. Sei il primo a notare, perché lo senti non con gli occhi, che all'interno della città la cosa con cui hai combattuto prima sta acquisendo potere. Perché? Non ne hai idea. Però senti una rabbia incontenibile. E ora faccio un giro di quello che volete fare. Partiamo da Sirio, non posso dire ancora il nome. Posso usare le braccia come catapulte o andrei solo da Nibel? Non hai idea di cosa succede. Cioè, se le provi a strappare, ti liberi e poi devi recuperarla. Però non sai quanto siano resistenti, non sai cosa succederà. Adone parla alla Mucelos e con tutta la calma, cioè il tonno è calmo, e dice: allontanati. Io ho solo bisogno che tu stia lontana da quei tre mortali. Io mi occuperò di evitare che quella cosa crei ulteriori danni. Vedi che dalla borsa della Mucelos è rotolata più in là una mana unit. E la Mucelos gattona verso la mana unit, la rimette dentro la sua borsa, la chiude e dice: chiaro, me ne vado. Non interessa. Va bene, perfetto, questo, lei è andata. Non so fare cosa, ma non mi interessa. Perfetto. Nibel, hai tirato giù la creatura e hai visto chiaramente la Mucelos a terra, e hai perso di vista la creatura, cioè le ife ti possono condurre da loro due, però di preciso cosa stia succedendo non lo capisci, perché ci sono i palazzi in mezzo, insomma c'è un po' di noise. Mi rivolgo a Devin e dico: è abbastanza? Avevo in mente una cosa diversa, ma un attimo. Sì. Sì, è qui davanti. Ah! Glielo dico. Sta arrivando una ragazza di umili costumi a risolvere... di umili origini, a risolvere i tuoi problemi. Andiamo! E comincio a correre in direzione di Adone e la Mucelos. Devin fa una fatica boia a starti dietro. E... sì, ma lo prendo. C'ho Clover Power, quindi lo prendo, tipo me lo porto in braccio. Ok. Oh, e... il twink di fiducia qua. Io posso provare a liberarmi intanto? Sì, sì, sì, sì. Lo facciamo fra un attimo. Ok. Andiamo di sopra. Avete visto questa cosa? E Aidos è tipo: anyway, dobbiamo sigillarla. Mif impreca in preita e poi da tutti i sonniferi, tutti e quattro. Tanto. Senti... senti le parole della donna mentre le obblighi a prendere i sonniferi e ti dice: tu più di tutti dovresti sapere che questo non ti porterà niente di buono. Il fatto di addormentarti o il fatto di fare quello che sto facendo? Tutta questa storia ti porterà a fare del male alle persone che ami. Io non ti ho fatto niente di male e non l'avrei mai fatto. Non è vero. Hai cercato di uccidermi prima, tu. Con il tuo cuore. Quindi il male me l'hai già fatto. Era nelle mie mani per caso? Ma sei sempre tu. E Mif le dà il... è estremamente resistente, per cui prima di addormentarsi ci mette un attimo e aggiunge: se ti strappassero il cuore e lo dessero a un cane, saresti tu quel cane. E si addormenta. Se ti strappassero, lo dico a tutti, se ti strappassero il cuore e lo dessero a un cane, saresti tu quel cane? E si addormenta. E avete la sensazione di essere tutti cattivi della situazione, perché era quello che volevo. E Aidos congiunge le mani. Lieto, in realtà. Lieto. Lieto è neutrale. È svizzero. Eidos congiunge le mani, annuisce e dice: ti ringrazio. Prego. Adesso dobbiamo occuparci probabilmente di due cose, e tipo indica da una parte e indica sotto. Io vorrei parlare un attimo con Eidos. Dimmi. Possiamo scendere le scale nel frattempo, questa non si muoverà di qua, il mio sigillo si attiverà tra poco e la... le farò la cosa che succede a quelli dentro le centrali. Tu non vuoi che il corpo muoia? Dentro di lei ci sono più anime. C'è Xadak, chiaramente, e c'è l'anima di mia madre. So con una decente quantità di certezza che tua madre non c'è mai stata. Quello non è il corpo di mia madre. Ok. E vuoi che l'anima di tua madre finisca all'interno di una centrale? Non vorrei dirti troppi dettagli, visto che mi sembra che sei interessato a contraddirmi, ma ho un mio metodo per recuperarla. Perché non l'hai fatto prima, quindi? L'ho già fatto 3 volte. Questa volta mi è stato impossibile, visto che mi hanno teletrasportato qua contro la mia volontà. E continuai ad infilarla in corpi diversi? Sì. Ho un'etica anch'io. Rubo soltanto corpi di ragazze che non ce l'avrebbero fatta. Quindi una volta estratta, Xadak verrà chiusa in una centrale? In un corpo senza anima. Direi che è il modo più umano di gestire le centrali. Fate quello che vi pare. E il lieto scende le scale. Eidos è un mostro, quindi comunque dovresti avere un minimo di sensazione viscerale mif a sta cosa. Sì. E ti mette una mano sulla spalla, una mano ungulata sulla spalla, e ti dice: sono pronto ad aiutarti con qualunque cosa ci sia sotto. Sei sicuro che in due ce la facciamo? Io sono un po'... non ho tante energie. Schiocca le dita e 3 piccoli imp di metallo compaiono intorno a lui. Non si sciolgono col fuoco? Ne posso chiamare altri. Ottimo, perfetto. Mi fido. E Lito se n'è andato? Sì. Se ne sta andando. Ok, cioè mi tenta di correre verso... cioè, tenta di correre verso Lieto, sta per cadere dalle scale, si prova a riprendersi un attimo, fa: hai intenzione di darmi una mano anche su questo? Quindi il vostro piano è quello di uccidere quello che è rimasto, no, del santo? No. C'è un... non lo so se sia un avatar, un qualcosa, comunque un qualcosa che va sigillato. Non abbiamo sigillato la principessa per questo motivo. Facciamo quello e la città non esploderà. Puoi chiedere al tuo amico e ti indica l'orecchio, perché a questo punto ormai è sufficientemente chiaro questa cosa di chi si tratta. In realtà Mif può fare 2+2. Fallo. Cioè, nel senso... l'abbiamo conosciuto, tecnicamente, se c'era solo la Mukelos e Iona, e la Mukelos è dall'altra, sì, parte, è Iona. Ma chi e io è mi Iona? Ricordo... I know it. Lo sai? Sì. Chi è? Ha detto Apollyon. Isn't it? Ah no, mi fa ridere perché è sia giusto che sbagliato, quindi sono tipo... 75%. Abaddon? No, Abaddon. No. Abaddon è una stronzata. Okay. Io sono una cosa giusta. parte che va detto Apolliona, volendo. Apolliona, sì. Vabbè, dai, a posto. Apolliona. 75% corretto. Okay. Penso che sia quello. Non so di più. L'aveva menzionato, se ti ricordi. Quindi sì, è meglio evitare che faccia un casino enorme. Più cose farai positive, più sicuramente l'impero non ti darà fastidio. Io non ti darò fastidio. Io non ti darò fastidio. Grazie, Aidos. Loro non ti daranno fastidio, ci sono tre piccoli imbe che sono... Lieto si massaggia tipo la fronte. Mi fa che fatti, imbe li rottali, per favore, mi fanno un po' di un branco di imbecilli, sono finito in pezzo, un branco di teste. Va bene. Tu hai la scelta. Uscite fuori dalla chiesa, cioè scendete le scale, cioè il e mentre, che... mentre scendiamo... dico sia a Mif che a... lui non può seguirci dalle scale, immagino Aidos. Sì, cioè... ci sta, come? Ci sta? Sì, sì, sì. Ok. Se ci sta, esatto. Dipende da quanto è grande. No, no, è lanky, ma è comunque... Questo è, questo è tipo una domanda ad Aidos. Questo è il tuo corpo reale, giusto? Questo è il mio corpo reale, giusto. E sei il figlio di... Sek. Tua madre e... Sadak. Kazak. Non funziona come credi, non hanno... No, no, non è tanto come credo, è perché. A questo punto, mia madre ha avuto un aborto spontaneo e ha chiesto a Sadak di riportarmi in vita. Ah. Purtroppo non sono mai stato un umano. Non... E quindi... Come mai lavori per l'impero? Non vi è ancora chiaro chi è mia madre? No. È la principessa dell'impero. Mia madre è la prima Promezia. Promezia Piscop. Non l'abbiamo mai sentita lei? No. Dovrei controllare, no. Ma credo di no. Cognome no. No, sicuramente il cognome, sicuramente nome di Promezia ne abbiamo sentito tipo 80, quindi... No. Sì, ce ne sono tantissime, abbiamo visto, con quel nome. È tutta colpa tipo tua madre, sua. Lieto. È tutta colpa sua. Se usciamo vivi da questa cosa, vi racconterò la storia. Forse tu è meglio che risali ed esci da... cioè, ci vediamo da fuori dalla chiesa, perché penso che ci sia un vescovo che sia disposto... E il suo corpo diventa normale. Nudo. Sì, ma gli imp no. Con tutti i vestiti. Gli imp no. Ma sì! Diventano tre cagnolini. Perfetto. Mi ricordano qualcuno che conoscevo con i conigli. Quel qualcuno è morto, non si parla delle persone morte. Andiamo avanti. Il vescovo vi guarda e dice: non era, c'erano dei cani prima. Buona serata. Possiamo usare... Ha problemi con colonne di pietra, palle di fuoco esplosive. Esatto, non ha sentito nulla. Io a questo punto ho una voglia matta di mi avvicino al vescovo. Gli appoggio di nuovo la mano sulla spalla. Lo guardo dritto negli occhi. E tipo... Arva, mi faresti un piacere? Gli puoi far vedere tutto quanto? Posso fare di meglio. E il vescovo sparisce. Il dove vescovo ricompare un secondo dopo. Ah, okay. Dopo aver visto tutto. Di persona. Di persona, è esattamente quello che volevo. Ehi, non abusare, non posso farlo quando voglio. Non è vero, vescovo, del tempo. Il vescovo ha due occhi così ed è tipo: credo che cambierò religione. Complimenti. Vuoi c'è un tempo? Presa molto bene. Sì, questo vescovo sarà Stavo per fare uno spoiler, vabbè. Minchia, sarebbe esatto, messo. Esatto. Io cercando solo di creare nuovi personaggi. Come se ce ne fosse bisogno, capito? Cioè, abbiamo Deimos, abbiamo Marika, abbiamo il Vescovo. Finisco la loro scena perché ormai siamo qua e poi faccio la vostra. Uscite finalmente da questa cazzo di chiesa e la chiesa si affaccia su la seconda piazza più grande della città. Quasi dal lato opposto di questa piazza c'è una persona che è una sagoma di una persona, ma per il resto è una gigantesca fiamma che per quelli voi che sono pratici di stregoneria emana rabbia e stringe in mano un libro rosso completamente ignifugo e non si capisce quali siano le sue intenzioni, ma di sicuro non sono buone. E se vi avvicinate riuscite a vedere che ha dei bracciali di pelle bruna con del pelo, una fascia sugli occhi di pelle bruna con del pelo, cavigliere analoghe e un gonnellino, quindi abiti che ricordano un berber, diciamo, e nient'altro, oltre a una chioma di capelli rossi che vanno verso l'alto spinti dalle fiamme. Finisce qua la vostra sessione. Dall'altro lato. Nibel e Devin raggiungono rapidamente la fine delle ife e trovano... Dimmi tu cosa trovano. Sei riuscito a liberarti da pochissimo. Ok. Sei proprio appena liberato. Mi alzo in piedi e appunto... Sono molto più alto di Nibel addirittura. Mi alzo in piedi. Vi guardo. E io riprendo subito il volo. Devin è pronta a sparare. E chiedo a Nibel cosa fa se vuol fare un'altra cosa. Fallo. No. No, no, no, no, no, no. Posso usare un'azione extra? Dipende cosa, dimmi. Non ho reazioni? No, ma te la faccio usare come reazione Time Anomaly, se è quello che vuoi usare. Sì, grazie. Avete presente la Time Bubble? Questa è la versione pro. Dovete resistere con difficoltà alta. Cioè dovete solo... Ti hanno già superato come versione, Lieto. Dagli non tempo. Non ci vuole tutto nella vita. Lieto non è ancora morto. Esatto, l'altro. Devin c'ha un... 13, non ci siamo. Resistere e c'ha un test altissimo, quindi a meno che non fai 10 non ha proprio possibilità. Nibel, dico. Però io gli dico... Nibel possiede ancora un... una cosa speciale però in saccoccia, se solo ricordo. Mi dispiace, esatto. Madone, ti ho trascurato per troppo tempo e uso la mia memoria. Ah. Possiamo fare anche la prossima volta, non devi farlo per forza sì. Adesso. No, ma ti racconto no! La memoria cos'è. La tua memoria riguarda i ricordi che hai di tua figlia. Cioè tutti i momenti più belli, quando è venuta al mondo, quando ti ha parlato per la prima volta, i suoi primi passi, tutta questa serie di immagini. E in tutti quei momenti avevi la sensazione che sarebbe stata destinata a grandi cose, che avrebbe avuto un futuro importante, speravi che avrebbe studiato magia, speravi che avrebbe avuto una vita migliore di quella che hai avuto tu, perché... hai lavorato tutta la vita in un posto orribile e la memoria si interrompe quando i tuoi sogni sono stati infranti dalla sua morte causata dalla Mukelos. E per un attimo vedi che all'interno della centrale di Apeira qualcuno ha avuto la stessa identica vita e c'è una ragazzina dai 16 anni appesa, incastrata e ferma in quel luogo, che è sorretta da innumerevoli cavi e li strappa. La finiamo qua.